Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. 102.2 RSD, ben ritrovati per una nuova puntata di Overbooking con me, Alvise, Elisa Veronese che mi accompagna alla voce. Un ringraziamento a Matteo che cura la produzione di questa trasmissione e a Daniele in console. La serata questa sera è dedicata a Andrea Garbarino e la sua ultima produzione letteraria, che è un romanzo dal titolo Gli Appartati, uscito nel 2010 per Tropea Editore nella collana Fuori Onda. Si tratta della seconda fatica a firma di Garbarino uscita per Tropea Editore. Il primo romanzo, intitolato Lutz, ha ottenuto un notevole successo sia di pubblico che di critica, e ci sono vari aspetti che legano i due romanzi. Vi anticipo subito che nel corso della puntata avremo un'intervista con appunto Andrea Garbarino, che ci ha fatto l'enorme cortesia di essere in studio con noi. E cosa dire su Andrea Garbarino? Andrea Garbarino nasce come giornalista, appunto pubblica due romanzi, due romanzi legati dalla, secondo me, dall'ambientazione e da una certa scelta dei personaggi. L'ambientazione perché Andrea Garbarino dimostra di essere in qualche modo innamorato del Centro e Sud America. Quindi se Lutz era una storia ambientata a La Habana e a Cuba ed in Sud America, per Gli Appartati Garbarino sceglie l'Argentina e in particolare sceglie il delta del Paraná, dove si articola una storia che si disvela attorno a quattro figure principali, due donne e due uomini, di cui poi Andrea ci parlerà in maniera estesa. Ora io vorrei introdurre, e ringrazio ancora Elisa per essere qui con noi, e andiamo a leggervi un primo estratto da Gli Appartati di Andrea Garbarino. A poppa della Maria II, il capitano Stavros Castelli vide gli uomini del motoscafo nero tendere il braccio e dare il via alla sparatoria. Investita dalla bufera delle armi automatiche, la baracca si sbriciolava sbuffando nuvole di polvere. Il vecchio era a terra, il fuoco dilagava. Poi il più massiccio dei tre uomini abbassò la pistola e indicò un punto verso sud. Il motoscafo si impennò e in pochi secondi scomparve tra due ali di schiuma. Stavros diede una voce al vecchio, tutto preso a domare le fiamme, ma quello neppure gli rispose. Allora espirò l'ultima boccata di fumo e gettò il mozzicone nel rio Bosciorno. Era capitato in un gran brutto posto. Da 3 mesi La nave se ne stava inclinata di 30 gradi sulla spiaggia. La falla a poppa era ancora aperta. L'elica giaceva da qualche parte, sul fondo melmoso della secca. Elias se n'era tornato a casa subito dopo l'insabbiamento. Lui era bloccato lì, in attesa di un contatto con Vuxinos. Ma il suo armatore sembrava scomparso. Non c'era da stupirsene. Collimava con la sua strategia da levantino: ignorare la nave, darla per affondata e irreperibile. E in effetti, chi mai l'avrebbe cercata sul Paranà? I creditori sarebbero rimasti a bocca asciutta. Passata la buriana, il vecchio lo avrebbe chiamato. Il suo piano era sicuramente questo. Non restava che pazientare, cercando di stare alla larga dai guai. Quanto ai militari della prefettura navale, si erano dimenticati di lui. Lì dove si era arenato non dava fastidio a nessuno. Il Maria II si trovava al centro dell'insenatura, alla confluenza tra Rio Bosciorno e Rio Sarmiento, sulla sponda orientale di un grande fazzoletto di terre basse, circondate d'acqua su ogni lato. Dunque un'isola, delimitata a nord dal Rio Paranà e a ponente da rigagnoli senza nome. A giudicare dal silenzio della foresta che orlava la spiaggia, la nave si trovava sul ciglio di un mondo spopolato. Lo spazio, l'ignoto, l'idea stessa dell'isola che galleggiava nel nulla, non gli davano alcuna apprensione. Lui veniva da un'isola. Ad Olonisos, suo padre possedeva una trentina di capre. Di ritorno da scuola, era il piccolo Stavros a occuparsene. Le conduceva in cima al monte Geladias e da lì lasciava vagare gli occhi lungo la sagoma imponente e fumosa dell'Eubea. Ai suoi piedi, tra le pieghe di quel mare senza fine, si stendeva un mondo estraneo e minaccioso, un mondo che parlava lingue incomprensibili e prometteva abbandoni. L'ignoto a lui piaceva scoprirlo sui libri, immaginare contrade, eroe, amori e battaglie, vivere al centro delle cose, rimanendone fuori. Le navi che vedeva passare sulla linea dell'orizzonte non lo attiravano. In cuor suo si augurava di non scendere più da quella montagna. Avrebbe voluto costruirci un piccolo calivi di sassi, trasportarvi tutta la biblioteca della scuola e rimanere lì col suo cane per sempre. Un giorno però sua madre gli aveva messo indosso il vestito buono e suo padre lo aveva accompagnato al porto per affidarlo al comandante del traghetto. Chiuso nella piccola cucina di bordo come aiuto cuoco, Stavros non vedeva mai la luce, ma almeno, come gli aveva promesso suo padre, mangiava. Poco a poco le traversate si allungarono e le navi divennero più grandi. Lui imparava in fretta, obbediva senza discutere. Si offriva volontario per le corvee più odiose. Si guadagnava rispetto e leali amicizie. Quella vita circondata d'acqua bastava a se stessa. Lo faceva sentire al riparo, come in un castello il cui ponte levatoio non calava mai. E intanto leggeva molto e studiava per corrispondenza. Le navi erano la sua scuola, il mare il suo paese, il paese meno complicato al mondo. Qualcuno poi lo segnalò a Innassa Vuxinos. L'armatore lo prese sotto la sua ala. Terzo ufficiale, secondo, comandante. Una nave tutta sua. Charlotte e Nicky ad aspettarlo nella casa del Pireo. Non poteva desiderare di più. E questo è il primo estratto dagli appartati, appunto il libro di questa sera, scritto da Andrea Garbarino. Io vi ricordo che questo libro è acquistabile in tutte le principali librerie e in internet, in tutti i siti dedicati. Vi ricordo anche che per intervenire in trasmissione e porre delle domande o dei suggerimenti potete chiamare lo 0421 560993 o mandare un fax allo 0421 560994. Siamo presenti anche in Facebook con una pagina che si chiama Overbooking e vi ricordo che Questa puntata, come tutte le nostre precedenti, è sempre scaricabile dal nostro blog che è www.bloverbooking.wordpress.com. Prima di andare a sentire l'intervista realizzata con Andrea Garbarino, vi facciamo sentire un pezzo di un jazzista a noi molto caro, si tratta di Gonzales. Ben ritrovati sui 102.2, sempre in compagnia di Alvise con Overbooking. Con noi in questa serata autunnale Andrea Garbarino. Andrea, sei in linea? Sono in linea, buonasera. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Abbiamo iniziato un po' a parlare di questa che è la tua ultima fatica letteraria. Vuoi un po' spiegare ai nostri ascoltatori di cosa si tratta? Ma è una storia ambientata tra Buenos Aires, il delta del Paraná, che è un fiume enorme, e poi le Disney e la Patagonia, dove sono stato nel 2008. È la storia di due uomini e due donne che hanno condividono lo stesso piacere, che è quello di stare soli e isolati. Questo non significa che sia un libro malinconico e triste, anzi è un libro pieno di situazioni molto umoristiche e anche di situazioni anche piuttosto forti, perché nella vita di questi due uomini, di queste due donne che hanno scelto di stare lontani dalle seccature, irrompe un boss che vuole sostanzialmente spianare il posto dove abitano per farci una certa cosa, che non dico per non togliere il piacere di lettura, ma insomma un progetto edilizio piuttosto delirante, e questo provocherà una serie di scontri fra questi personaggi, anche piuttosto forti e violenti, fino a quando poi queste persone, abituate a vivere in modo solitario, si coalizzano, riescono a rispondere all'organizzazione di questo boss, ma poi vengono inseguiti lungamente in Patagonia, fino al sud della Patagonia, dove poi c'è una scena finale molto a sorpresa, un finale a sorpresa che da quello che mi dicono i lettori che mi scrivono, effettivamente molto attraente, accattivante. Beh, partendo proprio dal titolo, Gli appartati, tu dedichi qualche parola all'interno del libro alla scelta del titolo, o meglio al significato che questo titolo ha in spagnolo? Sì. È perché, anche se io non sono un esperto di filologia, l'espressione spagnola è molto più preziosa, molto più ricca, amorevole della nostra. Cioè, da noi una persona appartata è vista come un misantropo, qualcuno che vuole, e anche degli atteggiamenti asociali. In spagnolo vuol dire, e fra l'altro il dizionario italiano dedica, per esempio, il Garzanti solo mezza riga al vocabolo e dice chi è fuori mano, virgola, solitario. Invece la lingua spagnola coglie un aspetto che a noi sfugge, cioè l'estraneità, il distacco, quella, come possiamo dire, quella bandierina che segna il desiderio di anonimato, di inesistenza per gli altri, no? Ecco, cioè, che non necessariamente significa misantropia, è la ricerca di altri valori, anche una sorta di resistenza e di rivolta contro alcune forme di imbarbarimento a cui tutti assistiamo quotidianamente, insomma, della società cosiddetta civile. Per quanto riguarda invece la scelta del luogo, beh, scegli il Delta del Paranà, che mi dà l'idea, almeno leggendo il libro, che sia in qualche modo un buon posto per appartarsi, perché comunque, cioè, quest'acqua che, cioè, diciamo, può da un momento all'altro dissolvere tutto, o può essere molto, molto piatta, molto ferma, ma e quindi tiene le cose un po', cioè, diciamo, in ballo. E quindi è un po' una Sì, specie di carpe diem, per come la vedo io. Un diciamo istante. che è un fiume molto complicato, molto largo, gigantesco, cioè è largo in alcuni punti 140 metri, 160-170 metri, profondo 30 metri, ma non è così cattivo come, voglio dire, i fiumi che purtroppo hanno colpito la vostra regione anche pesantemente negli ultimi tempi. Diciamo che è un fiume che è conosciuto, che è dragato, quindi non... e però insomma fa impressione perché è tutta acqua limacciosa, è un fiume che viene da lontanissimo, dal Paraguay, ed è navigabile, cioè si sta magari sulla riva piuttosto appartati, appunto, e poi si vedono passare dei cargo che normalmente possiamo vedere al massimo nei maggiori porti italiani, quindi degli enormi cargo che riescono a navigare, che trasportano via fiume le merci dal Centro America, diciamo così, scusate, dalla parte centrale, insomma, del Sud America fino al profondo sud, fino a Buenos Aires. Ed è un luogo molto affascinante, insomma. Anche io l'ho risalito con quelli che li chiamano colectivos, cioè un barcone dove le persone che sono lungo il fiume con il quale vanno a rifornirsi a Buenos Aires, per la verità a Tigre, che è una cittadina nord di Buenos Aires, e poi rifanno il percorso inverso su questi barconi, carichi di tutto. Io ho visto lavatrici, polli, tutto quello che, di cui hanno bisogno e che non trovano sulle rive di questo fiume, piuttosto, come dicevo prima, piuttosto appartato. Ecco, e quindi viaggiare su questo barcone con queste persone è di per sé già una bellissima avventura per chi ama viaggiare, insomma. Puoi dirci qualcosa sulla tua esperienza personale in Argentina e più in generale in Sud America? Perché io ricordo che tu sei al secondo romanzo e anche il primo, Luz, si occupa in qualche modo di Cuba e quindi di... È ambientato in Centro e Sud America, sì. No, volevo chiederti, cioè, la tua esperienza personale quanto incide sulla, diciamo, la caratterizzazione dei personaggi? Perché io vedo, leggendo una qualche tra virgolette, contrapposizione tra quello che è il carattere dei quattro, diciamo, protagonisti, che sì, è comunque molto diverso, con quello che è il contesto lo sfondo, insomma. Ma se tu intendi che sono persone che hanno, come dire, un carattere riservato piuttosto che pieno di disincanto, mi permetto di contraddirti, perché in Sud America, in particolare in Argentina, che fra l'altro è popolata di moltissimi veneti e da famiglie, cioè un 70% degli attuali abitanti dell'Argentina può vantare un antenato italiano, sì. Quindi lì poi parli di spagnolo, ma parli anche italiano, ecco, per dire. Comunque lì c'è una cultura del disincanto, dell'ironia, dell'umorismo sottile, e questi personaggi hanno, a partire dal vecchio anarchico dinamitardo Cesar, hanno queste caratteristiche. Poi c'è questo capitano greco che vive tutto storto nella nave arenata, che invece ha una cultura greca che in qualche modo inizialmente si scontra con quella sudamericana, ma ne viene fuori un mix molto interessante, perché poi è il personaggio forte di questa compagnia, diciamo, di persone che poi si rivolta, si ribella allo strapotere di questo boss, e grazie alla sua esperienza, alla sua disciplina anche mentale, riesce a organizzare la giusta risposta, insomma. Però insomma, l'Argentina perché ci si possono ambientare ancora delle storie antiche, io direi delle storie antiche nel senso che parlano di sentimenti che da noi sono un po', come posso dire, superati dal rumore che fa il mondo. Noi siamo in continuazione sottoposti a bombardamenti, a cose di questo genere, e poi ci dimentichiamo, insomma, che nel silenzio si può stare anche bene. Il silenzio da noi è visto come un disvalore, cioè come qualcosa che va riempito di rumore. In Argentina il silenzio non è considerato un aspetto negativo. Le parole sono poche, ma io non ho mai sentito raccontare storie così affascinanti, così interessanti come in Argentina, dai vecchi ma anche dai giovani che hanno avuto esperienze nei luoghi più desolati come in quelli più popolati. È gente che sa come vivere, è gente allegra, ma è anche gente profonda, molto profonda. Infatti, il mio punto era proprio quello, ossia la contrapposizione tra quello che è il carattere, diciamo, argentino e un po' come tu tratteggi i tuoi personaggi. A proposito di Cesar, da dove nasce l'idea della sua, diciamo, professione, se così possiamo chiamarla, ossia dalla sua riguardo alla sua vita precedente? Cesar è nella mia mente, perché ovviamente sono frutti, parte della fantasia, è un personaggio, un vecchio di 70 anni, che ha avuto un passato molto preciso, perché così non ci sono fraintendimenti. Io non ho 70 anni, è un personaggio che ha, come dire, avuto una bellissima vita fino a un certo punto, con una bellissima moglie, con dei bellissimi figli, lavorando all'università, e a un certo punto, come spesso accade, spesso purtroppo accade, la sua vita di colpo cambia per una serie di circostanze sfortunate. Si ritrova a dover vivere in una baracca su palafitte lungo il corso del Paranà, e chiaramente è una persona animata da rimpianto, una persona che parla col cane, che parla da solo. Però ricorda una cosa, soprattutto la sua esperienza nelle cave di marmo di Carrara, che sicuramente tutti sanno sono molto noti in tutto il mondo, insomma, e dove lui praticava i buchi per poi mettere le cariche di dinamite per far saltare il marmo e poi tagliarlo, eccetera. Poi Carrara è una zona famosa per gli anarchici, che avendo a disposizione fra l'altro tutta questa dinamite, talvolta la usavano non per scopi industriali. Ecco, lui ricorda con piacere queste amicizie straordinarie con questi cavatori di marmo, eccetera. Ora, io non ho mai frequentato un cavatore di marmo, ma ho frequentato Carrara, e ho visto quanto ancora è forte questa tradizione, sia, diciamo, anarchica, sia proprio del piacere del lavoro ben fatto nelle cave. Ecco, lui si è portato qualche ricordo non solo nella testa ma anche nel cappotto, e cioè alcuni candelotti di dinamite con cui, se tu hai letto il libro e lo sai, ma non diciamo troppo, diciamo con questa dinamite lui combinerà più di un pasticcio. Ecco. Esattamente. E invece la figura di Stavros, io, beh, Stavros è il capitano della nave, sì, della nave Esattamente. Renata, sì. Beh, la tratteggio un po' diversamente rispetto a Cesar, nel senso che lui, beh, a me dà l'idea di essere un taciturno in un certo modo, Lo è, hai ragione. però contemporaneamente è in passato una persona abituata a decidere, a comandare i propri sottoposti, eccetera. E quindi rimane un po' a metà in qualche modo, salvo Beh, poi, lui, perdonami, Dini, di pure, salvo poi rivelarsi all'interno della storia, diciamo. sì, no, beh, insomma, io sono stato in Marina per qualche tempo e tuttora frequento il mondo delle persone che navigano. Ecco, i comandanti delle navi, o comunque chi lavora su una nave, vive in una fortezza completamente isolata in mezzo al mare, soprattutto i viaggi fra continenti, insomma, sono lunghissimi, molto solitari. Ecco, e chi comanda una nave così finisce spesso, insomma, per affezionarsi a questa sorta di prigione che viaggia nel mare, no? Perché è un mondo dove non rischi di essere ferito, dove non rischi di avere problemi nel relazionarti con gli altri. Quindi questo capitano è, come avrai visto, insomma, è un 45enne, è un 50enne, scusami, che 50 anni. si guarda anche lui indietro e dice: avevo una bella famiglia, avevo un figlio, però alla fine ho scelto questa professione. Mi senti? Sì, certo. Ah, scusa, no, perché sembrava. Ecco, ho scelto questa professione e alla fine si ritrova a quasi, insomma, l'avrei visto a decidere lui stesso di Esatto, arenarsi sul Paraná, no? esatto. Perché? Perché è un modo per mettere un punto finale a questa esistenza trascorsa, come dice lui stesso, a lasciare delle scie che si dissolvono in pochi minuti, no? Sì, Ecco, e lì la sua vita cambia, sì. in qualche modo è il capitano che resta con la sua nave fino alla fine, almeno per come Sì, l'ho letta io. resta con la nave fino alla fine e la difende finché può. La nave poi diventa teatro di varie scorribande di questo boss, dell'organizzazione di questo boss. È una figura, la nave stessa è una figura centrale del romanzo, no? E fra l'altro c'è una metafora che non ti sarà sfuggita, che è quella della nave: quando una nave si spiaggia, cioè Sì. si arena, si piega, si inclina Esatto. di 20-30 gradi. E potete immaginare tutti che cosa vuol dire vivere in una nave inclinata di 30 gradi, con tutto che ti rotola addosso, Infatti. i tavolini storti, anche solo il letto, o dormi con la testa tutta in giù, o coi piedi che cercano di sfondare il letto. Quindi è una metafora di una vita storta, no? Ecco, lui la vuole vivere fino in fondo. E poi da questa alleanza che fa con gli altri personaggi, insomma, ritrova un'energia che, come hai detto tu, non sembrava non avere, Tra l'altro, quella descrizione della nave mi è piaciuta particolarmente tanto perché mi ricorda un libro che io amo, che è Il gatto e il topo di Günter Grass, dove eh? il protagonista in gioventù crea un suo mondo, diciamo, appartato e dimenticato dal resto, in una nave che è un relitto semiaffondato in una spiaggia. Quindi lui si butta, entra Certo. nel relitto e vive, appunto, come dicevi tu, un po' in maniera obliqua in qualche modo. Sì, beh, è una metafora, devo dire, con molta franchezza che non ho copiato, però è una metafora abbastanza evidente. Ecco, io francamente questa cosa del gatto e topo non l'avevo letta, ti ringrazio del suggerimento, adesso vado a vederlo. E volevo chiederti invece qualcosa su invece le protagoniste femminili di questo romanzo. Due donne che anche loro piuttosto diverse, se mi posso permettere. Molto diverse. In particolare, vuoi dirci qualcosa di Ada? Scusa, Ada è il personaggio di Lutz. Il mio primo romanzo, forse vuoi parlare di Sofia? Sì, scusa, una serie di appunti. Vedo che hai letto molto bene anche il primo, quindi ti dirò, guarda, non pensare, ma io stesso quando scrivevo questo romanzo ogni tanto mi scappava Ada al posto di Sofia, perché sono due donne che in qualche modo si assomigliano. Sofia è una 45enne, che un architetto che si ritrova a dover fuggire dal marito, un marito violento, un marito che la perseguita, e per forza di cose si deve trovarsi un nascondiglio, insomma, un posto dove non stare tranquilla, riprendersi un po' dall'amarezza di questa vicenda, eccetera. E che ha un figlio da un primo marito che è morto in circostanze tragiche. E questo figlio, insomma, entra e esce dalla sua vita, come fanno spesso, se all'ascolto ci sono genitori attorno alla mia età, che fra i 50 e i 60 si ritrovano, sanno come i figli entrano e escono dalla nostra vita con una certa indifferenza, diciamo così. Io sostengo nel libro che non siamo più noi a lasciare soli, come dicevano una volta i nostri figli, ma sono i figli che lasciano soli noi, ecco, nel senso che i ruoli si sono invertiti. Una volta, oggi, dagli psicanalisti le persone della mia età si lamentano di essere stati lasciati soli dai genitori, da genitori distratti dalla mondanità, dalla loro vita professionale. Oggi noi siamo molto molto attenti, molto, persino in un modo eccessivo, al benessere dei figli, eccetera eccetera, e sono loro che escono, entrano, fanno un po' quello che vogliono. Non, in questo non c'è nessun tipo di critica, voglio solo dire che ci sono stati degli spostamenti, insomma, in questo campo. Sì, l'altra donna invece è una nobildonna, Valencia, un'anziana nobildonna che vive a Buenos Aires, e la cui storia credo che tu sia d'accordo, non possiamo raccontare perché sennò svegliamo troppo, ma insomma andiamo troppo avanti, che è la protagonista di una gigantesca rimozione, la rimozione di un episodio accaduto molti anni prima, e che lei, come spesso accade alle persone anziane e anche di un certo lignaggio, finisce per rimuovere in un modo così strano, che può sembrare inverosimile, ma invece chi ha frequentato queste persone sa che è così, cioè sono capaci di dimenticare anche le cose più evidenti pur di vivere in pace. Sì. Un'ultima domanda per i nostri ascoltatori: se dovessi consigliare un libro, a parte consigliamo vivissimamente entrambi i tuoi, non solo gli appartati ma anche il precedente, Lutz, se dovessi consigliare un autore al momento che ti piace o che ti è piaciuto in passato e che senti di voler consigliare ai nostri ascoltatori. Allora, io ho un autore che diciamo in una fase della mia vita è stato mi ha aiutato molto, e si chiama Alvaro Mutis. Il suo libro preferito è La neve dell'ammiraglio, fra l'altro, se può interessarvi, un piccolo aneddoto: io l'ho conosciuto Alvaro Mutis, sono andato a Città del Messico e l'ho conosciuto, degli amici comuni ci hanno fatto incontrare, è un signore che oggi ha più di 80 anni, no, che allora aveva, adesso credo sia attorno ai 90, ma allora più di 80 anni, si sedette a tavola in questo bel ristorante all'aperto in Città del Messico e ordinò subito un whisky, ma alto 8 dita, cioè un gigantesco bicchiere di whisky, e si sedette e poi pasteggiò con un altro bicchiere di whisky. Un personaggio straordinariamente creativo, uno dei grandi esponenti della cosiddetta letteratura magica sudamericana, e La neve dell'ammiraglio è la storia della risalita di un fiume, no? È un romanzo conradiano per certi versi, ed è un libro magnifico, lo consiglio vivamente a tutti, è edito da Einaudi ed è un libro straordinario. Fra l'altro ci siamo trovati anche vicini, perché lui diceva che diceva neppure nel male gli uomini riescono a rendere interessante quello che fanno, dice, da cui l'importanza fondamentale del mare, delle distese desertiche e dei ghiacciai, o qualcosa del genere. Cioè una persona anche lui molto affezionata alle navi, in tutti i suoi romanzi ci sono sempre delle navi, ed è magico come la sua letteratura, ecco. Io ringrazio Andrea Garbarino per essere stato con noi, grazie veramente infinite per questo ultimo consiglio, e sempre sui 102.2 di Overbooking passiamo a un altro pezzo musicale. Thank you. Ben ritrovati sui 102.2 di RSD in compagnia di Overbooking. Siamo sulle note di Angel Eyes di Yamamoto Trio, un disco che io mi sento personalmente di consigliare al mondo per la sua bellezza. Credo sia un'opinione solo personale. Comunque, ringrazio ancora Andrea Garbarino per la gentilezza che ci ha prestato nell'essere stato con noi, e anzi ringrazio Tommaso di Marco Tropea Editore per averci permesso questa intervista e per sostenere la nostra trasmissione. Vi rinnovo come invito, anche questo molto personale, vi rinnovo il suggerimento di acquistare e leggere sia Lutz, che è il primo romanzo di Andrea Garbarino, che Gli Appartati, che è questo secondo, edito sempre su Marco Tropea nel 2010, perché è una storia avvincente e una storia che, come diceva Andrea stesso nell'intervista, ci porta in un mondo talmente distante ma talmente affascinante rispetto al nostro, che sicuramente saprà coinvolgervi. Prima di lasciarvi e di salutarvi e di rinnovare l'appuntamento con Overbooking per la settimana prossima, sempre grazie ad Elisa, andiamo a leggere un secondo estratto dagli Appartati. Qui, come avete sentito prima, ci sono due protagonisti maschili del romanzo. Si tratta di un ex capitano greco, un capitano navale greco, e una persona da un passato Cesar, da un passato un po' più, diciamo, burrascoso. Si tratta di un ex anarchico. Qui i due intrecciano un dialogo dopo essersi conosciuti. Tu non sei normale, amico mio. Le dosi erano un filo troppo alte, ma senti, devo pisciare. Andiamocene fuori da questo buco storto. Ma quello lì sopra nella foto è tuo figlio? Sì, è Nicky. Sei contento di lui? Ti vuole bene? Non lo so, con me non parla molto. I miei non mi parlano da anni, disse Cesar, e intanto si sporse dalla cuccetta di Stavros per interrogare il soffitto della cabina. Sai, capitano, conosco una signora, una maestra, una di quelle che ti steccano col righello se non fili dritto. Beh, quando la incontro le chiedo sempre la stessa cosa. Perché i miei figli non mi vogliono bene? Lei li difende. Dice che devo avere pazienza. Ma sai cosa penso? Che tutto lo yoga che si spara è diventata troppo indulgente. E allora? Dice che se i figli ci detestano è colpa nostra. Beh, ha ragione. Ha! Fai yoga pure tu? Guarda, le cose come stanno, invece. Li abbiamo viziati e ancora si lamentano. È per noi padri che è dura, Stavros. Siamo noi le vere vittime. Ci accusano di essere assenti, ma intanto loro, sono loro che ci lasciano soli. Escono quando gli gira e nemmeno ti salutano. Di noi non se ne fanno niente. Sul soffitto della cabina, Cesar cominciava a distinguere qualche nido di ragno, il viso annebbiato di una donna, una culla. Erano le impronte di una solitudine composta, incapace di sconforto. «Senti un po', capitano, come sei messo a soldi? Vendo quegli animaletti di metallo, me li piazza un tale al Puerto de Frutos. Giulio? Lo conosco. Ogni volta che mi vede cerca di rifilarmi un fuoribordo giapponese. Ho passato un brutto guaio anche con lui, col titano. Si accarezzò la barba e aggiunse: il titano sì che ne ha di soldi, specialmente a fine mese, quando finisce il giro dei suoi clienti. Quel bastardo è più imbottito di una banca. Me l'hanno raccontato, riconobbe laconico il capitano. spiava gli occhi del vecchio con un'aria perplessa. Ma dove voleva arrivare? «E tu? Tu che fai per vivere?» gli chiese. «L'esploratore di soffitti?» «Non capisco». «Non mi meraviglia. Non capisco nemmeno io», disse Cesar. Allungò a Stavros la bottiglia di scotch. Lui fece un cenno di diniego con la mano. «Sai, capitano, anche quando mia moglie si è ammalata, non capivo. Ha iniziato ad appassire e giorno dopo giorno le cadevano le foglie e mi guardava con gli occhi vuoti. E sai che ti dico? Quando è morta ho smesso di capire le cose semplici, ma intanto ho cominciato a vedere le cose che gli altri neppure si sognano. E da allora la gente mi chiama e mi fa: qui dentro mio marito ci ha lasciato le penne, stimatissimo Don Pizarro, e qui mia madre ha visto il diavolo, e là mio figlio ha perso la voglia di cercare moglie. Eppure ho arieggiato, ho imbiancato, ma è sempre la stessa storia. Questa casa è piena di patimenti e la notte non dormo bene. Mi segui, capitano? Allora arrivo io. Mi stendo sui loro letti ed esploro i soffitti e vedo cosa posso fare. Dove hai imparato a parlare così? Replicò Stavros, stupefatto. È la filologia romanza, amico mio. Ti si attacca addosso e non se ne va più. Molto meglio cavare marmo a Carrara. Accanto alla foto di Niki c'era una cartolina che raffigurava una baia con un minuscolo porto in fondo ad un budello di mare. Il mare era verde, come i pini che scendevano fino agli scogli.